I saw it too. I am not sure. I went earlier, when it was just light. I need to tell you something. It was red. Did he say anything? You could not do anything? No one can know about this. It's past midnight. Thank you. la follia, oggetto della mia trattazione, è la follia che è più o meno presente in ciascuno di noi. E non soltanto quella che ottiene il battesimo psichiatrico con la diagnosi di schizofrenia o con qualche altro marchio inventato dagli agenti specializzati in psicopolizia della società capitalista all'ultimo stadio. Così, quando io uso la parola folle in questa sede, non mi riferisco a una speciale razza di persone, ma il folle che è in me si rivolge al folle che è in voi, nella speranza che il primo folle parli chiaramente o a voce abbastanza alta perché il secondo lo senta. Proprio strano vedere un'intera specie, miliardi di persone, ascoltare combinazioni di note prive di significato e giocare con esse. Miliardi di persone che dedicano buona parte del loro tempo a quella che chiamano musica, lasciando che essa occupi completamente i loro pensieri. A volte la normale immaginazione musicale varca un limite e diventa, per così dire, patologia. Come quando un particolare frammento di musica si ripete senza sosta, a volte in modo esasperante, giorno e giorno. Queste ripetizioni spesso si tratta di una frase o di un tema ben definito di 3 o 4 battute. Possono continuare a girare nella mente per ore e giorni, ma di svanire. Questa incessante ripetizione, il fatto tale musica possa essere del tutto fuori luogo o per nulla gradita o addirittura odiosa, indica un processo coercitivo. Suggerisce, insomma, che la musica si è penetrata in una parte del cervello e l'abbia sequestrata, costringendola a scaricarla in modo autonomo e ripetitivo, come può accadere nel caso di un tic o di una crisi epilettica. Thank you. aumento del tono muscolare e contrazione, riflessi tendinei rapidi, anoressia, crampi addominali, pupille dilatate, convulsioni e possibile stato epilettico, psicosi con allucinazioni visive e a volte udibili, confusione e ideazione paranoica, delirium, disartria e convulsioni, paralisi respiratoria e intestinale, cute secca e arrossata, diminuzioni delle secrezioni mucose. Secondo Butler, il ritmo musicale, con la sua pulsazione regolare, è molto diverso dalle sinfonie o le parole, che sono accentate in modo irregolare. Egli riteneva che la percezione e sincronizzazione della pulsazione sia un aspetto del ritmo che sembra esclusivo della musica e non può essere spiegato quale prodotto collaterale del ritmo e musica. Sembra dunque probabile che il ritmo musicale sia evoluto indipendentemente dalla parola. Prepariamo una cosa. riusciti a riportarmi il mio bambino? Mamma! Oh, piccolo mio, che brutto spavento che ti hanno fatto! Cosa? Da quando qua riesci a stare in piedi da solo? Maga Yubaba, ricorda la promessa! Devi fare tornare Chihiro e i suoi genitori nel mondo degli umani! Piano, vacci piano, Aku! Questo mondo ha le sue regole, non dimenticarlo! Attenzione a dove mettete i piedi. Chihiro, non ti aggrappare così, mi fai inciampare. Siamo usciti dal tunnel. Oh, perbacco! Che succede? Ma guarda che azzurro! No, è pieno di polvere qui dentro. Sarà uno scherzo? Avevo detto che non dovevamo fermarci.